non disdegna la presenza a Sanremo. Vediamo, insomma, è una cosa che non posso decidere neanche io da solo, d'altronde. Ma a proposito di partecipazioni, io leggo che tu stai pensando anche a un possibile impegno politico, è così? Tu hai ascoltato qualche... Ho fatto un'intervista di recente per in una bicicletta, dove mi si chiedeva un po' di cose, di domande, che forse è stato colto quella cosa lì. No, l'impegno politico no, in realtà non sono tagliato per la politica, non mi intendo di politica e non mi occupo e non vorrò occuparmi di politica. Sei sicuro? Se Zingaretti vince le elezioni, magari ti fa assessore alla cultura, non ci vai nel Comune di Roma? Ma c'è senz'altro, se posso contribuire a ridare lustro a quello che è l'aspetto culturale della musica e non solo di intrattenimento, insomma, ben venga l'incontro con Zingaretti, lo sarebbe felice di farlo. Credo che sia importante anche rappresentare gli operatori, la categoria degli operatori del settore della musica, che siano discografici, musicisti, tecnici, insomma, anche in Parlamento. Magari, che ne so, potresti diventare il nuovo Nicolini, riorganizzare le estati romane, no? Questo è insieme ad altri artisti. Credo che sia importante anche riqualizzarsi e rincontrarsi con altri artisti per dare dei suggerimenti e generare delle condizioni che possano ricreare uno spazio di aggregazione attraverso la musica, ma credo che sia anche importante trovare un modo affinché la musica sia rappresentata, come avviene in altri paesi europei, in Francia, in Germania, sia rappresentata anche in Parlamento, per dire. Quindi c'è la cultura e spettacolo, però la musica come sezione è a parte. Sai che in Parlamento ci sono molti cantanti, però il problema è che steccano spesso. Diciamo che alcuni sono stonati, altri no. Però io so una cosa, che molti dei politici che vediamo, insomma, in auge in questo momento sono grandi appassionati di musica e addirittura adesso sto conducendo un programma radiofonico anch'io, un'altra emittente, che non lavoro. Non lo possiamo nominare. Stiamo scherzando. Mi è venuta voglia, chissà, che sarebbe bello invitare qualche politico che ci parli delle sue passioni musicali, perché dietro l'aspetto istituzionale, a volte che uno carpisce nel vedere il politico parlare, se magari si nasconde un grande rocker che è pronto a mettere la maglietta dei Led Zeppelin. Tu sai, per esempio, un grande sassofonista è Roberto Maroni, che non ti aspetteresti, per dire. Grande sassofonista, grande, insomma, grande, io non lo so, non sono musicista, non posso giudicare, Max. Però, insomma, credo che sia importante adesso, perché la musica sta vivendo un periodo abbastanza difficile, tutte le arti in generale, chiaramente dovendo fare dei tagli, purtroppo, ahimè, il primo taglio viene effettuato proprio alla cultura, e questo non va bene, perché noi siamo un paese con grande tradizione culturale, soprattutto della musica, e siamo molto indietro rispetto a, se dobbiamo rispettare realmente delle normative europee, la musica non le rispetta queste normative, perché siamo molto più indietro rispetto anche all'integrazione della musica nelle scuole. Vedi, in Francia ci sono, forse perché c'è stata una interazione più grande, tutti i paesi che hanno colonizzato hanno portato anche la cultura dei popoli che hanno colonizzato. Forse in Italia questo non è avvenuto, ma la multietnia musicale, razziale che c'è in Inghilterra e in Francia ha portato anche una ventata di innovazioni anche nella creatività musicale. E ti ripeto, appunto, in Francia la musica è rappresentata in Parlamento. Summertime. All'Arena di Verona, la Tosca di Giacomo Puccini, direttore d'orchestra Marco Armiliato, che quest'anno moltiplica gli sforzi anche con l'aiuto di Giuseppe Verdi. Tosca è, diciamo che, è definita l'opera perfetta in tutte le situazioni, in tutti i momenti, in tutti i teatri, in tutti gli spazi aperti, perché è veramente un'opera che è entusiasmante per la sua scrittura pucciniana nel vero senso della parola, perché era proprio in quest'opera è compresa tutta la passione, il dramma e l'amore che nell'opera ci si può aspettare. Senz'altro l'ambientazione dell'Arena di Verona aiuta molto a esasperare tutte queste forti emozioni che si provano durante questa splendida opera.